qualcosa che nasce, qualcosa che ci prende, qualcosa in comune, qualcosa differente, qualcosa nell'aria, qualcosa nel cielo, qualche progetto nuovo in cui credere davvero, qualcosa che ci spinge, che alla fine ci solleva, dai giorni, dalla noia, dalla vita inoperosa, qualcosa che ci butta di colpo sopra un palco, la voglia di cantare e di suonare, tieni il tempo, e tieni il tempo. Insomma qualcosa che ci dà l'energia, che entra nella mente come il senso di utopia, l'immagine lontana del destino che incombe, tramando qualche cosa in questo vento che fugge, in questo vento che fugge. Qualcosa di falso, qualcosa di vero, qualcosa che fa girare il mondo intero, la terra che brucia sotto i nostri passi, l'amore che nasce dal profondo degli abissi, profondità sommerse e vette inesplorate, qualcosa che comunque ci lascia senza fiato in questo piccolo mondo di fango e di gesso, che in certi frangenti ci fa volare lo stesso. Ci fa volare lo stesso. Anima mia, cercami tra la gente, sono un cucciolo sperduto, la metà di niente, qualcosa da prendere, qualcosa da amare, da custodire, gelosamente coccolare, qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, anche tu sei speciale tra le tante, qualcosa sta nascendo dentro le nostre vite, un fuoco di passioni e di gioie infinite, e quelle gioie infinite. Qualcosa che nasce, qualcosa che ci prende, qualcosa in comune, qualcosa differente, qualcosa nell'aria, qualcosa nel cielo, qualche progetto nuovo in cui credere davvero, qualcosa che ci spinge, che alla fine ci solleva, dai giorni, dalla noia, dalla vita inoperosa, qualcosa che ci butta di colpo sopra un palco, la voglia di cantare e di suonare, tieni il tempo. Insomma qualcosa che ci dà l'energia, che entra nella mente come il senso di utopia, l'immagine lontana del destino che incombe, tramando qualcosa in questo vento che fugge, e in questo vento che fugge. Qualcosa di falso, qualcosa di vero, qualcosa che fa girare il mondo intero, la terra che brucia sotto i nostri passi, l'amore che nasce dal profondo degli abissi, profondità sommerse e vette inesplorate, qualcosa che comunque ci lascia senza fiato in questo piccolo mondo di fango e di gesso, che in certi frangenti ci fa volare lo stesso, ci fa volare lo stesso. Anima mia, cercami tra la gente, sono un cucciolo sperduto, la metà di niente, qualcosa da prendere, qualcosa da amare, da custodire, gelosamente coccolare, qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, anche tu sei speciale tra le tante, qualcosa sta nascendo dentro le nostre vite, un fuoco di passioni e di gioie infinite, e quelle gioie infinite. Qualcosa per noi, qualcosa per noi, qualcosa per noi, sì, qualcosa per noi, qualcosa per noi.